24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, le 7:20 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Riparte una nuova settimana, riparte con Paolo Corleoni in regia, che saluto, e che ci dice che sarà solo oggi, beato lui, a svegliarsi a quest'ora. E di cosa parliamo nel nostro sondaggio di intercettazioni? Ebbene sì, cari ascoltatori, parliamo di questo e della loro pubblicazione sui giornali, tutto quello che leggiamo dell'inchiesta P4. Vi chiediamo, voi siete favorevoli a questa pubblicazione, che ne pensate? Dovete votare su radio24.it, bianco o nero. Ne parleremo poi con ospiti alle 8:30. E da cosa iniziamo? Come sempre, dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 27 giugno, vediamo qualche titolo di apertura dei giornali. Sole 24 ore, l'edizione del lunedì. Federalismo da riscrivere, questo è il titolo di apertura. Comuni e province, tasse già aumentate per 10 milioni di italiani. E poi la vicenda P4 e la vicenda della manovra finanziaria è il titolo di apertura degli altri giornali. Il caso P4 scuote la finanza, così titola il Corriere della Sera in apertura. Accusati altri ufficiali, si dimette consigliere di Tremonti. Per Repubblica, rissa nel governo sulla manovra, da psichiatra le misure di Tremonti. Questo è quello che ha detto il sottosegretario Crosetto. Per La Stampa, il titolo d'apertura, governo, scontro su Tremonti. Anche per Il Giornale questo tema, Tremonti alle corde. Per la P4 si dimette il suo braccio destro, il sottosegretario Crosetto attacca la manovra, roba da psichiatri. Per Il Messaggero, la manovra divide il governo. Come vedete, i titoli sono molto su questo. L'apertura dell'Unità è una storia di 16 operai della ThyssenKrupp che si sono costituiti parte civile, si trovano ora senza lavoro, senza CIG. Questo è il titolo, Il prezzo del diritto. C'è una foto con, davanti all'entrata della ThyssenKrupp. Sulla prima pagina dell'Unità, con tanti mazzi di fiori esposti. Allora, da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, la prima è una storia tipicamente italiana che troviamo raccontata a pagina 21 del Corriere della Sera da Lorenzo Salvia. Difficile leggere le mail e i prof ingolfano le poste. È una vicenda che riguarda che cosa? Riguarda i concorsi da professore universitario che dovrebbero partire in autunno. E si preannuncia un'operazione colossale con 180 commissioni, 900 giudici, una previsione di oltre 25.000 candidati, numeri da concorsone alle poste, che si tratta praticamente di una selezione che non metterà in palio cattedre, come avveniva finora, ma servirà a entrare negli elenchi delle abilitazioni nazionali, vale a dire quel listone dal quale tutte le università potranno poi chiamare ordinari e associati per tutte le materie. Ci proveranno ovviamente in tantissimi, gran parte di ricercatori, soltanto loro sono già 25.000, poi professori associati che vogliono essere promossi a ordinari. Insomma, si preannuncia questo concorsone molto molto affollato dal punto di vista numerico. E allora, che cosa succede? Ci sono dei documenti che vengono richiesti per chiunque si deve presentare a questo concorso. Ogni partecipante deve spedire alla commissione almeno 12 pubblicazioni, dall'articolo di 3 pagine fino a un libro che può arrivare a 500 pagine, e gli organizzatori del concorso hanno detto, il Ministero dell'Università ha detto, la strada più semplice qual è? Mandateci tutto via mail, con una mail certificata, e un PDF in allegato con tutti i documenti. Non sia mai, si è sollevato il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha certificato che la mail non va bene. Perché? Perché la trasmissione informatica può diventare troppo onerosa e richiedere tempi di confezionamento e lettura più lunghi. E dunque ci vuole il formato cartaceo, la carta. Milioni e milioni di pagine di carta, sentenziato il Consiglio di Stato. Il Ministero ha cercato di opporsi dicendo guardate che insomma milioni di verremmo inondati di milioni e milioni di pagine di carta, costi incredibili, 8 milioni di euro per fare le fotocopie. Pensate se decine di migliaia di aspiranti a questo concorso mandano documenti di libri di 500 pagine, poi vanno fotocopiati, mandati a ogni commissario, a ogni giudice. Sarebbero milioni di... E il Consiglio di Stato ha deciso così. La mail è difficile da leggere, c'è il rischio anche che sia più lungo leggere le mail, molto meglio il formato cartaceo. Questo pare... Che succederà? No al computer, concorso da 25 milioni di pagine, perché la mail per il Consiglio di Stato è uno strumento troppo complicato da utilizzare, molto meglio il formato cartaceo, la vecchia carta per disboscare mezza Amazzonia. Allora, la seconda notizia da cui voglio partire, l'abbiamo sentita anche nel GR, beh, una vicenda, è sicuramente una notizia che... coinvolgerà anche molti italiani, molti amanti di Vasco Rossi, no? Ha stupito tutti questo annuncio di Vasco Rossi, che ha detto: mi dimetto da rockstar a 60 anni, non posso più permettermelo, questa sarà il mio ultimo tour. E un po' ovunque su Repubblica, 60 anni non posso più permettermi questo, una intera pagina. E in prima pagina anche del Secolo XIX, Vasco Shock, mi dimetto da rockstar. È in prima pagina anche con tanto di foto che campeggia sulla stampa, a centro pagina, Vasco, a 60 anni mi dimetto da rockstar, è la mia ultima tournée. Questo ha detto al TG1, sta di fatto che ha detto chiaramente continuerò a scrivere canzoni, e poi insomma molti pensano che sia più un addio non definitivo alla Greta Garbo, tanto per intenderci, ma un senso del discorso è: voglio cadere in piedi, come scrive Repubblica, e non consumarmi in un interminabile, languido e patetico tramonto sul palco, magari fare qualche concerto qua e là, certo, non più queste tournée anche abbastanza estenuanti. Vasco Rossi dice: mi dimetto da rockstar. In primo piano. Eccoci qui alle 7:32 minuti. Allora, la pagina politica è tutta concentrata su due temi: ancora la questione della P4 con l'inchiesta, le intercettazioni, le polemiche. Tra l'altro, le intercettazioni parleremo anche noi alle 8:30. Vi chiediamo nel nostro sondaggio: siete favorevoli alla pubblicazione di tutte queste paginate di intercettazioni che abbiamo letto sui giornali? E poi l'altro tema della pagina politica certamente è quello della manovra finanziaria, la settimana della manovra finanziaria. E ieri ci sono stati degli attacchi anche molto duri. Certo, prende le prime pagine dei giornali il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, che ha attaccato in una nota dicendo è una manovra da psichiatria quella del ministro Tremonti. Ovviamente tutti fanno notare, i commentatori politici, che Crosetto tra l'altro era tra gli invitati sabato al matrimonio del ministro Mara Carfagna, c'era anche tra i testimoni del ministro Silvio Berlusconi, e come fa notare la stampa, Ugo Magri, tra gli invitati c'era appunto il gigantesco Crosetto, sottosegretario alla difesa, gigantesco proprio perché è alto più di 2 metri. E anche Repubblica fa notare un lungo colloquio tra Crosetto e il presidente del Consiglio durante il ricevimento al matrimonio di Mara Carfagna, e poi Crosetto che se n'è uscito con questa nota. Crosetto fa anche un'intervista alla stampa: per fare il ministro così basterebbe un ragioniere. Oggi a pagina 6, sono stufo. Questo è l'esordio di Crosetto. Le bozze filtrate sulla manovra andrebbero analizzate da uno psichiatra, questo ha detto alle agenzie. Io sono solo un iscritto del PDL, che vuol dire quello che pensa sulla politica economica, ma non credo di essere l'unico a pensarla così. Magari non tutti hanno il coraggio di dirlo. E poi Crosetto attacca: Tremonti fa il metodo più banale, quello per cui basterebbe qualunque ragioniere, invece bisognerebbe accorpare, razionalizzare, tagliare la spesa con idee innovative, cambiare lo Stato, mentre lui continua ai tagli lineari alla spesa. Io parlo di cose di merito, a me Tremonti è simpatico, lo stimo, ma questa politica economica non ci porta da nessuna parte. Io vengo da una realtà fatta di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e devo risposte a loro, che creano ricchezza. In questi anni gli abbiamo aumentato la pressione fiscale, annullato lo statuto del contribuente, li abbiamo fatti diventare tutti solo evasori da massacrare, non abbiamo alleggerito la burocrazia. Ecco, queste sono tutte le accuse che fa Crosetto, che poi dice tutti devono chiedere, è un fatto notorio, il permesso non a Tremonti, perché a lui non abbiamo accesso, ma ai suoi funzionari al ministero, che neanche ti rispondono al telefono. Mi sono rotto le balle, scusatemi il termine. Insomma, Crosetto incarna quel vento di protesta contro la manovra, manovra che dovrà vedere la luce, manovra di 40-45 miliardi, che dovrà vedere la luce in settimana tra mercoledì e giovedì. E tra l'altro domani, tutti fanno notare, ci sarà uno snodo importante, perché domani per la prima volta si vedranno al tavolo Tremonti, Berlusconi, la Lega, i responsabili, cioè si metteranno sul tavolo per cercare già un primo sì a questa manovra, che poi dovrà essere approvata in settimana. E secondo gli retroscenisti sempre della politica, Berlusconi a questo matrimonio di Mara Carfagna avrebbe parlato anche di questa manovra, dicendo io non mi faccio comandare da nessuno, io non prendo ordini da nessuno, così andiamo a sbattere. Secondo addirittura Repubblica, in prima pagina, Berlusconi avrebbe detto Giulio Tremonti è impazzito. E da qui nasce questa attacco frontale alla manovra, con Guido Crosetto in primo piano. Tuttavia, fa sapere Repubblica, la posizione del ministro Tremonti, quando si troverà domani faccia a faccia con i suoi, quelli che vengono definiti accusatori addirittura da Repubblica, è deciso di metterli di fronte alla realtà. Forse, fa sapere Francesco Bei su Repubblica, è quello che dice Giulio Tremonti in questi giorni ai suoi amici, qualcuno nel governo non si è ancora reso conto di quello che è successo venerdì. C'è stato un attacco premeditato, coordinato dalla speculazione, una dichiarazione di guerra contro l'Italia. Venerdì infatti si è toccato un nuovo record storico per lo spread tra i BTP decennali e il corrispettivo Bund tedesco, e i titoli delle banche italiane sono andati a picco simultaneamente. Con questi dati alla mano, il ministro dell'economia è certo di poter resistere a ogni diktat. Cioè, secondo Repubblica, la difesa del titolare del tesoro sarà proprio questo: la speculazione internazionale ci sta colpendo e dobbiamo stare attenti. Insomma, sulla manovra è un tema politico sul quale si dibatte molto. Anche per il Corriere, offensiva sulla manovra dal PDL, accuse al Tesoro, e certo quella di Crosetto viene messa in primo piano come l'accusa più pesante, no? Quella di bozze della manovra da psichiatria. E gli altre fibrillazioni sono sicuramente dall'interno della Lega, che è molto molto tenuta sotto controllo in questo momento. Una Lega che certo sulla manovra vorrà vederci chiaro, vorrà vedere se quelle che erano le proposte lanciate da Pontida ritroveranno già delle prime risposte in questa manovra. Una Lega che deve fare i conti anche con delle fibrillazioni interne, no? Si è arrivato davvero a un passo comunque dallo scontro tra Bossi e Maroni. Ieri Bossi è ancora intervenuto dopo che aveva detto: in generale ci metto 2 secondi a sbattere fuori chi non è d'accordo. Bossi ha precisato: parlavo in generale. Ma certo, Maroni, mettendo la sua firma su un documento che chiedeva la sostituzione del capogruppo alla Camera, ha fatto una cosa sbagliata. Nella Lega è sempre stato il segretario a scegliere i capogruppo. Comunque, con Maroni ci siamo già chiariti. Insomma, Bossi per la prima volta ammette pubblicamente quello che sotto traccia sapevano un po' tutti di questa tensione all'interno della Lega. Ieri tra l'altro c'è stata questa scena, no? Questo tradizionale tiro alla fune che la Lega fa ogni anno a Sesto Calende, sul Ticino, sul fiume Ticino, tra le sponde lombarda e piemontese. Ieri la fune si è spezzata con anche dei problemi, insomma, fisici. Qualcuno si è forse rotto il braccio, anche il deputato Giancarlo Giorgetti. Insomma, quando succedono queste cose, abrasioni alle mani, e questa fune che si è rotta, e Bossi subito l'ha ribaltata a suo favore dicendo: è un messaggio a Silvio Berlusconi, non tirare troppo la corda che poi si spezza. Mentre l'altro tema politico, appunto, è quello della P4, le inchieste della P4. Sapete che nel weekend, chi ha voluto leggere i giornali, il tema che più sui giornali si è letto è quello della questione del coinvolgimento della Guardia di Finanza ai più alti livelli, perché l'accusa è che una delle fonti di Luigi Bisignani fosse il capo di Stato Maggiore della Finanza Michele Adinolfi, indagato proprio per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Così anche il generale Vito Bardi, comandante interregionale per l'Italia Meridionale, indagato con Adinolfi per gli stessi reati. E beh, certo, quello che è successo è che altri due generali della Finanza, secondo i giornali, sono indagati per le soffiate alla P4, in questo caso nomi che potrebbero essere coperti da omissis dai magistrati, si aggiungono a quelli già finiti sui giornali. E tra l'altro questo ha coinvolto anche, che cosa? Da vicino il ministro dell'economia, perché ha coinvolto uno suo consigliere, vale a dire il deputato Marco Milanese, che era stato, che aveva accusato proprio il generale Adinolfi di essere la talpa nei confronti a favore di Bisignani. E il consigliere economico del ministro Tremonti ieri si è dimesso. P4 lascia il consigliere di Tremonti, così titola pagina 5 il Corriere della Sera. Milanese si dimette dopo la deposizione contro il generale Adinolfi, si è dimesso da consigliere economico. Tra l'altro La Stampa fa notare questa frase, una frase anche sibillina, fa sapere La Stampa, nell'articolo di Guido Ruotolo a pagina 7: ho la coscienza a posto, nei prossimi giorni capirete. Così Marco Milanese, parlamentare PDL, ex ufficiale della Guardia di Finanza e collaboratore del ministro del Tesoro Tremonti, non ha ancora dettato alle agenzie la notizia delle sue dimissioni per non mettere in difficoltà il ministro, e al cronista che cerca di strappargli un commento, dunque Guido Ruotolo lo chiama, dice sibillino che tutto si capirà nelle prossime ore. È l'annuncio di nuove retate giudiziarie, di avvisi di garanzia, di convocazioni e perquisizioni che coinvolgono altri ufficiali della Guardia di Finanza? Così chiede Guido Ruotolo sulla stampa. Certo, estate indimenticabile per il comando generale delle Fiamme Gialle, colpito al cuore dall'inchiesta sulla P4 col suo capo di Stato Maggiore Michele Adinolfi, indagato appunto per favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio, chiamato in causa proprio dall'ex ufficiale della Guardia di Finanza, oggi parlamentare, Marco Milanese, per l'appunto, colui che poi si è dimesso ieri. C'è una serie di articoli sul personaggio, su chi è Marco Milanese. Il ministro, fa sapere il Corriere, lo aveva già congelato, era già stato coinvolto in alcune inchieste di Napoli e Roma. 51 anni, ex ufficiale della Guardia di Finanza, deputato con il PDL dal 2008, che si è dimesso appunto ieri. Di fatto però, fa sapere il Corriere, il suo ruolo in via 20 settembre al Ministero era congelato sin dal Natale scorso. A dicembre il suo nome era già comparso nell'inchiesta napoletana guidata dal magistrato Vincenzo Piscitelli e battezzata Operazione Malta, vale a dire un vorticoso giro di mega frodi fiscali grazie a società radicate alla Valletta nel settore delle assicurazioni auto, che dovrebbe presto arrivare a conclusione. Già da quando era stato coinvolto in questa inchiesta, insomma, il suo ruolo all'interno del Ministero si era via via affievolito. Tra l'altro, ovviamente, il tema oggi, ci sono poche intercettazioni, devo dire, su questo, sui giornali poche intercettazioni, un po' il nostro tema. Mario Giordano sul Giornale titola in maniera polemica un editoriale: l'inchiesta sulla P4, vogliamo sapere tutto? Ebbene sì, questa volta siamo con Repubblica, no al bavaglio, vogliamo sapere i segreti della sinistra. Se qualche deputato dà del poco intelligente a Bersani, se qualche dirigente del PD viene definita mignotta come poche, vogliamo sapere se qualcuno alla Camera, magari in momento di rabbia, definisca il capogruppo un imbecille, vogliamo sapere se Dario Franceschini ha un amante, se qualcuno vuole sposare D'Alema, vogliamo sapere tutti quelli che hanno riso degli strafalcioni di Di Pietro, quanti hanno sparato a zero su Vendola. Insomma, Mario Giordano polemicamente dice: vogliamo sapere anche della sinistra tutte queste cose. Mentre l'onorevole Paniz, avvocato, uno che parla sempre chiaro, quando le dice non le manda a dire, ha detto sulle intercettazioni: per i giornalisti bisognerebbe prevedere il carcere vero e per gli editori pene pecuniarie che funzionino davvero da deterrente. Questo l'onorevole Paniz sulla riforma delle intercettazioni. in primo piano. Allora, il Sole 24 Ore, come detto, l'edizione del lunedì parla di federalismo. Tra l'altro voglio segnalare due iniziative allegate al Sole 24 Ore oggi. La prima è la guida dedicata alla cedolare secca, una nuova tassa piatta sugli affitti che interessa 2 milioni di proprietari chiamati a valutare la convenienza del regime fiscale sostitutivo. E dunque c'è una guida per capire tutto sulla cedolare sugli affitti, mentre la seconda iniziativa che voglio segnalare riguarda l'energia, il rapporto energia, oggi allegato gratuitamente al quotidiano, ed è concentrato in particolare sul fotovoltaico. Dunque tutto quello che volete sapere, nuovi dati sul fotovoltaico, lo trovate nel rapporto Energia del Sole 24 Ore oggi con il quotidiano in edicola. Tra l'altro Sole 24 Ore che, come detto, parla di federalismo, federalismo da riscrivere, questo è il titolo d'apertura, e tra l'altro si concentra su che cosa? Sulle tasse, una bella notizia da sapere il lunedì, tasse già aumentate per 10 milioni di italiani, comuni e province. Tutti i dettagli li trovate con Giuseppe Latour e Serena Riselli a pagina 2, tasse in aumento per 10 milioni di italiani, già 29 province hanno portato al 16% l'addizionale sull'RC auto, IRPEF locale al via a Brescia, a Venezia, c'è tutta una mappa di tutte le province e comuni che già hanno in qualche modo alzato i balzelli ai cittadini italiani, rincari del fisco locale in vista per 10 milioni di italiani. Questo è il risultato dell'effetto combinato degli aumenti dell'addizionale RC auto, già decisi da 29 province, e di quelli relativi all'addizionale IRPEF, già ufficializzati da una cinquantina di comuni. A rendere possibile questa valanga di rincari sono i decreti sul fisco comunale. Il primo permette ai sindaci, che al momento dello stop imposto nel 2008 avevano un addizionale IRPEF sotto la soglia media dello 0,4%, di aumentarla dello 0,2% annuo per 2 anni. E ovviamente qualcuno lo ha fatto. E così via, insomma, sta di fatto che il risultato è che sono aumentate o stanno per aumentare per 10 milioni di italiani le tasse, le tasse. Se volete sapere quali province, se vi interessano, le trovate sul Sole 24 Ore. E l'altro tema è quello del check-up federalista, gli esami di riparazione sul fisco dei comuni. Per l'appunto in discussione sono le tasse immobiliari, l'IVA condivisa, i livelli di finanziamento, insomma le correzioni al fisco. Quello che succede sull'imposta municipale sugli immobili, sulla compartecipazione IVA, sulla perequazione, sull'imposta di soggiorno, tutti questi dettagli legati alla riforma del federalismo li trovate a pagina 3 di quello che succederà tra poco. Così come il Sole continua in quello che è stata una campagna, che è stata lanciata da un po' di tempo, sulla questione delle case fantasma, una cosa che mi ha inquietato molto sapere, almeno nelle cifre, perché sono 2,2 milioni di potenziali immobili fantasma individuati dall'Agenzia del Territorio. Sono stati individuati anche con fotografie aeree, mappe, indirizzi. Ebbene, case fantasma all'ultima chiamata. Oggi il Sole 24 Ore, a pagina 5, partono le verifiche su 1 milione di edifici e un ICI potenziale evasa fino a questo momento, che arriva a 500 milioni di euro, che sarebbe a disposizione dei sindaci, e ovviamente parte l'ultima fase per cercare di completare l'operazione. È chiaro che ci sono delle zone critiche, c'è il 52,2% dell'arretrato in generale da smaltire in tutta Italia, in diverse province però la quota si avvicina al 100%, Crotone per esempio ha record di particelle ancora da esaminare, il 90,9%, ma anche Vibo Valentia, Catanzaro, Potenza, Cagliari, Benevento, Taranto, Siracusa, oltre l'80%, soprattutto nel mezzogiorno il problema di case fantasma che non sono state ancora controllate, e c'è provincia per provincia tutto quello che manca ancora da controllare. Sui giornali vi segnalo, ma è meglio magari che seguiate Radio 24 durante il corso della giornata, quello che sta succedendo in Val di Susa. Abbiamo sentito anche nel GR, sono giorni decisivi per l'apertura del cantiere dell'alta velocità. Oggi ne parlerà anche Oscar Giannino alle 9. E poi i nostri notiziari, avete sentito la tensione già molto alta, perché il ministro Maroni ha detto entro il 30 giugno, ha ribadito, o si apre il cantiere per la TAV o altrimenti perdiamo tutti i finanziamenti da Bruxelles per l'alta velocità. Ovviamente i Notav sanno che è il momento decisivo, c'è uno schieramento di forze, 2000 poliziotti, 2000 agenti. Si teme ovviamente che la situazione possa degenerare. Due eserciti ai piedi di una scarpata, così Marco Imarisio sul Corriere della Sera a pagina 3 racconta di come appunto ci siano due eserciti, da una parte le forze dell'ordine, dall'altra parte quelli dei Notav, lo scontro annunciato che nessuno ha saputo evitare. Ovviamente anche la stampa, anche per regioni territoriali, apre su questo e si concentra con le prime quattro pagine del giornale dopo l'annuncio di Maroni, apro il cantiere TAV, gli irriducibili con polenta e salsicce, tende e barricate pronti a resistere fino all'ultimo, mentre il quotidiano nazionale ci titola, almeno io l'edizione quella del Nord del Giorno, l'ultimo treno, è il titolo di prima pagina, tensione in Val di Susa, in migliaia contro l'alta velocità. Maroni avverte il cantiere aprirà entro il 30 giugno, le forze dell'ordine sono pronte allo sgombero. Ovviamente bisognerà vedere come va a finire, ma certo la situazione non è di quelle che fanno pensare che possa andare per il meglio. Che dire, sui giornali c'è anche la solita vicenda, quella dei rifiuti di Napoli con il governatore Caldoro, il governatore della Campania che è stato indagato per epidemia, che dice non voglio pagare per altri, e il solito annoso tema, le altre regioni devono o no aiutare la Campania, con il ministro dell'ambiente Prestigiacomo intervistato da Repubblica che dice su questo tema la chiusura della Lega è inaccettabile, aiuteremo la Campania. C'è qualcosa di condivisibile nella posizione della Lega quando dice che abbiamo aiutato la Campania fino ad oggi con provvedimenti che semplificano. Questo percorso però va avanti troppo a rilento e bisogna darsi una mossa. Cercheremo di convincere in Consiglio dei Ministri la Lega con pazienza e con un provvedimento chiaro. Bossi, sono sicura, avrà senso di responsabilità. Insomma, tutte le volte si fa appello a questo senso di responsabilità con il ministro Prestigiacomo che dice il governo è intervenuto e interverrà anche in questa circostanza e la Lega capirà. Voglio chiudere questa rassegna stampa con un articolo apparso sul Corriere della Sera ed è in prima pagina. L'UNESCO ha deciso di insignire nuove, di far fregiare nuove località italiane del titolo di patrimonio dell'umanità. Sono 8 centri italiani da nord a sud che hanno una caratteristica comune: sono stati in qualche modo toccati dalle visite dei Longobardi. La rivincita dei Longobardi, pagina 25. L'UNESCO premia 8 luoghi toccati dal popolo germanico nella penisola. Si parte da Castelseprio e Gornate Olona in provincia di Varese, oppure una località a Brescia, o Cividale del Friuli a Udine, poi Campello sul Clitunno in provincia di Perugia, Spoleto in provincia di Perugia, e poi due località, o meglio due chiese, la chiesa di Santa Sofia a Benevento, il santuario di San Michele sul Gargano. Queste sono località tutte toccate dai Longobardi che l'UNESCO premia come patrimonio, premierà presto come patrimonio per l'umanità in Italia. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:23 minuti. Voglio salutare la vicepresidente del Senato, Emma Bonino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Senta, la stupisce il silenzio più o meno generalizzato sul fatto che i radicali da giorni protestano contro le condizioni delle carceri italiane? No, non mi stupisce, mi preoccupa però, mi preoccupa perché questa nostra lotta, questa nostra iniziativa, non questa nostra protesta, ma insomma questa iniziativa tende a mettere nell'agenda politica, invece degli schieramenti a destra e a sinistra, giochi di palazzo e quant'altro, in cui sembrano tutti ferratissimi, poi non ne azzeccano una, ma non importa, quello che è a nostro avviso una priorità assoluta dal punto di vista economico, sociale e di Stato di diritto. Dico economico perché uno dei motivi per cui, per esempio, questo paese non riesce a attrarre capitali stranieri è esattamente la concezione internazionale che da noi non esiste Stato di diritto e che quindi se qualcuno viene da noi e per caso ha bisogno appunto di un tribunale o di un ricorso in giustizia, poi si aspetta 10 anni e non si sa come va a finire. Sociale, perché con 8 milioni di processi pendenti significa che perlomeno il doppio di famiglie sono implicate in questa lunghissima mala giustizia, chi come accusato e chi come accusatore, e alla fine giustizia non riesce ad averla nessuno. E sociale perché evidentemente è anche umano e da Stato di diritto, perché una conseguenza di questa mala giustizia è la situazione carceraria che ormai è indegna non solo di un paese civile, ma è indegna perché viola tutte le nostre leggi che stabiliscono esattamente come devono essere le carceri, sì, e come vanno trattati i detenuti, e invece è come se fosse carta straccia, il risultato essendo 850 suicidi in carcere, dove vivono peraltro in una diciamo insieme chi è in attesa di giudizio, chi sarà ritenuto poi innocente, insieme quelli a fine pena mai, insomma in una situazione veramente infernale. Questo proposito voi avete proposto tra l'altro anche un'amnistia, che è una delle proposte insieme all'indulto più impopolari, no? Voi lo sapete, no? No, ma il problema nostro è, a prescindere dal fatto che lei ha visto che sia in Germania che in California, lo Stato quando si rende conto e la Corte dice guardate non è possibile trattarli così, sono ricorsi a pene alternative. Quello che noi diciamo è che l'amnistia deve essere l'inizio di una grande riforma della giustizia, perché diversamente dall'indulto l'amnistia cancella il reato, il che vuol dire che le scrivanie dei magistrati che oggi, grazie anche all'obbligatorietà dell'azione penale, sono intasate di tutti i processi possibili e immaginabili e finiscono con 200.000 prescrizioni l'anno. Ora, 100.000 prescrizioni l'anno sono o non sono un'amnistia illegale? Sì. Insomma, l'amnistia c'è. Quindi la c'è già, lei dice. Sì, 200.000 prescrizioni l'anno, a casa mia si chiamano amnistia, ma non decisa alla luce del sole con regole certe, decisa semplicemente alla discrezionalità totale, diciamo, delle priorità che i magistrati vogliono dare rispetto alle migliaia di cartelle e dossier che hanno sulla loro scrivania. Senta, le chiedo, questa settimana è la settimana della manovra finanziaria, si parla tanto di costi della politica, i radicali puntano su questo, si taglieranno questi benedetti costi della politica, i parlamentari si taglieranno, le pensioni vitalizie si taglieranno, perché se ne parla da decenni ma poi non si fa niente. Non si fa niente semplicemente per una difesa dello status quo. Vede, io sono una che ritiene che il problema non è il numero dei parlamentari, ma quello che fanno sti parlamentari e come sono eletti. Per cui ben venga, non importa se è il risultato di una legge elettorale a collegio, per cui la gente sceglie tra due persone note. Note perché ovviamente per prendere i voti si mettono quelle note di cui si sa tutto, vita, morte, miracoli e quant'altro, esattamente come in Inghilterra o negli Stati Uniti. Dopodiché a quel punto, a seconda di come sono grandi i collegi, si possono benissimo tagliare o non tagliare, ma il problema è cosa fanno questi signori se rappresentano il territorio o se rappresentano la segreteria del partito. E mediamente non lo fanno, dicevo. Mediamente insomma, più la seconda. Se sono due signori segretari di partito che nominano l'intero Parlamento, uno non dipende dal proprio elettorato ma dal proprio segretario, quindi lei capisce bene che il livello di autonomia è quasi zero. La vogliamo mettere così? Sì. Poi possiamo passare alle province. Poi possiamo passare ai vitalizi, perché ad esempio al Senato il vitalizio è facoltativo, chi lo vuole e chi non lo vuole. Alla Camera no, ma soprattutto invece per i cittadini è così. No, bella questa che è facoltativo, l'ho scoperto adesso. Anch'io. Vorrei saperne uno che ha scelto di non prendere il vitalizio al Senato. Perché invece di poi di farsi trattenere l'8%, quell'8% se lo usa per un'assicurazione privata. Non Senta, ma invece questa inchiesta sulla P4 la appassiona o no? Cioè leggere le intercettazioni? No, non mi appassiona perché mi sembrano veramente gli afflati, insomma, di un potridume su cui uno può scoprire o non scoprire. Quello che mi parrebbe più preoccupante è capire, per tutti i cittadini, mica per chi non è, com'è che queste intercettazioni finiscono negli atti processuali. Lo dico per i cittadini meno difensibili, poveracci, perché mentre i potenti poi c'hanno fior fior di avvocati per difendersi, il cittadino poveraccio certamente non li ha. Senta, nel salutarla e ringraziarla, ma Emma Bonino al Quirinale, perché ogni tanto torna questa questione, ci sarà mai? Lei lo vede questo Parlamento in seduta comune a eleggere Emma Bonino? Devo dire forse no. Però io essere demordo, onesto, quindi vedremo. Beh, lei ci spera? No, non demordo, è un'altra cosa. Non demordo, va bene. È un'altra cosa. Va bene, la ringrazio, grazie, buona giornata. Lei, grazie Emma Bonino, vicepresidente del Senato, dei Radicali ovviamente, per essere stata con noi. E allora di intercettazioni parliamo proprio dopo la pubblicità del metro del nostro sondaggio. Le intercettazioni che finiscono, come ci ha detto Emma Bonino, non si sa come e perché, sui giornali. Ma è giusto così? Che ne pensate? È giusto? Vi piace leggere tutto? Vi piace leggere un po'? Dovreste leggere solo quello che interessa dal punto di vista penale? Invece è giusto che si legga tutto di tutti? 24 mattino. Alle 8.35, eccoci qua. Allora, il tema del nostro sondaggio, le intercettazioni. Siete favorevoli alla loro pubblicazione sui giornali? Questo vi chiediamo oggi. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Le ultime in ordine di tempo ovviamente sono quelle della cosiddetta inchiesta P4. Registro oggi due punti di partenza. Mario Giordano sul Giornale. Vogliamo sapere tutto anche del PD. Vogliamo sapere se qualche deputato dà dell'imbecille al capogruppo, se qualcuno del PD definisce mignotte come poche qualcun'altra, se definisce un imbecille magari se Dario Franceschini ha un amante o se qualcuno vuol sposare D'Alema. Ovviamente è molto graffiante, ironico e polemico. C'è poi l'onorevole Paniz del PDL che rilancia: per i giornalisti bisogna prevedere il carcere vero per chi pubblica. Allora, ne parliamo con due onorevoli del Popolo della Libertà, Nunzia De Girolamo, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a lei. Voglio salutare anche l'onorevole del Partito Democratico Pina Picerno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Senta, intanto onorevole Di Girolamo, chiariamo questo perché qualche giorno fa avevo il ministro Fitto che ha smentito categoricamente, sebbene fosse stato messo all'interno di persone che consultavano Bisignani, siccome il suo nome l'ho letto, anche il suo ho letto, di persone che consultavano Bisignani, ci dica la sua, insomma, si dichiari. Sì, infatti, anzi, accolgo l'occasione per chiarire. Sicuramente io ho conosciuto Bisignani, ma visto un paio di volte nella mia vita, passare come personaggio insomma più in vista in questa intercettazione, così come riportato per un giorno dal Corriere, mi sembra realmente ridicolo, un'alterazione dei fatti. Sicuramente sono stata chiamata, come in quell'occasione, per avere dei complimenti riguardo ad un articolo uscito su Panorama, nemmeno ricordavo sinceramente, ma da qui a considerare Bisignani un consulente del partito, del governo o mio personale, insomma, mi ne sembra passa un eccesso. Delle intercettazioni invece che ne pensa? Cioè, perché l'ANM, l'Associazione dei Magistrati, dice, e anche il procuratore Lepore, che avevamo nostro ospite venerdì, ha detto, insomma, però ci si indigna sempre di questa questione, che vengono pubblicate delle cose, magari anche alcune sbagliate, però del contenuto nessuno si indigna. Ma innanzitutto io credo che bisognerebbe evitare l'abuso che viene fatto delle intercettazioni, e quindi ab origine essere utilizzate non per trovare la notizia di reato, ma le prove di reato, anche perché le intercettazioni utilizzate per tantissimo tempo, senza un minimo di controllo, senza dei limiti, rappresentano anche un costo eccessivo. Per quanto riguarda poi la pubblicazione, noi abbiamo un DDL Alfano, così detto, che è stato votato al Senato, dal quale si potrebbe partire. Alfano ha specificato che noi facciamo grande apertura anche all'opposizione per modificarlo, per migliorarlo, per confrontarci sull'argomento, perché ritengo che non sia giusto che sul giornale vadano conversazioni di carattere anche privato che nulla hanno di interessante rispetto al reato per il quale la magistratura agisce e che nulla interessano anche agli elettori. Cioè, voglio dire, per quanto non condivida la presa di Giacomo che dice alcune cose di Berlusconi e sì, quindi questo sì. modo di sfogarsi, comprendo anche che in un momento di rabbia, in un momento di particolare tensione, si è portati a dire la qualsiasi cosa. E però dice giusto. Vederlo sui giornali non è no, non credo sbagliato. Che sia giusto, non credo che sia corretto e né interessante per il lettore. Appunto, come diceva oggi Mario Giordano, allora dovremmo sapere tutto quello che pensano i politici tra di loro, soprattutto nello stesso partito, dove purtroppo, lo dico purtroppo, c'è questa competizione, ci sono anche questi veleni che sicuramente non gradisco. Ma una pubblicazione di un'intercettazione di quel genere comunque lede anche i rapporti fra le persone. Su questo non c'è dubbio, perché c'è stata anche tensione proprio visibile, si vedeva anche tra la Prestigiacomo stessa e il Premier il giorno poi dopo questa intercettazione. Vorrei dall'onorevole Pina sì, Picerno. Sì, vuole sapere, allora io vorrei sapere dalla Bini, per esempio, cosa pensa di Franceschini. E vabbè, adesso sentiamo onorevole Picerno. Intanto partiamo dal punto, non so, è una provocazione ovviamente quella che fa Mario Giordano, a dire allora vogliamo sapere, come dire, ci sono tante cose che abbiamo letto che effettivamente avevano poca rilevanza penale. Altre invece sicuramente... di rilevanza penale, poi vedranno i magistrati, più interessanti dal punto di vista delle accuse o delle presunte accuse abbiamo letto, però la questione è che finisce tutto in un mare magnum e tutto sui giornali. Come la mettiamo questa posizione? No, guardi, intanto vorrei dire in premessa che ci troviamo di fronte al solito copione di cui ci siamo un po' stancati, evidentemente, cioè vengono fuori notizie di ipotesi di reato che riguardano il Presidente del Consiglio e gli amici del Presidente del Consiglio. La prima fase sono gli insulti che vengono rivolti alle procure, alla magistratura, sempre le solite cose. La seconda fase è lo sdegno, l'indignazione per il fatto che vengono pubblicate sui giornali delle intercettazioni. Io sono d'accordo con quanto veniva ricordato prima, io mi indigno e mi preoccupo molto di più del contenuto di quelle intercettazioni e trovo che questa discussione, che ripetiamo ormai all'infinito, l'abbiamo fatto, lei se ne ricorderà, appena dopo la vicenda Ruby, per esempio. E beh, come no, cioè, ecco, insomma, se ne parla negli ultimi anni e mezzo, diciamo, di intercettazioni, di materiale per parlare di questo tema, ce ne sono stati. Ce ne sono stati. Allora, io dico semplicemente che trovo questa discussione fuori tempo e fuori tema per due ragioni di fondo. La prima è che il compito delle istituzioni, la preoccupazione dei parlamentari e delle istituzioni in questo momento dovrebbe essere quella di mettere in condizioni la magistratura e le forze dell'ordine di fare piena luce sui fatti inquietanti che stanno venendo fuori, perché quando si parla di contatti, di stato parallelo, di logge massoniche, di faccendieri che decidono in maniera parallela, insomma, io rabbrividisco. Lo scenario ipotizzato la inquieta un po'. Mi inquieta da morire. Allora dico, mettiamo in condizione la magistratura di fare piena luce a più presto, ma a tutela soprattutto anche dell'immagine delle istituzioni e del Parlamento. Credo che questo dovrebbe essere la preoccupazione di chi non ha nulla da temere, evidentemente. E la seconda questione che mi permetto di sollevare sommessamente è che le priorità degli italiani, lo dicevamo prima, negli ultimi anni non facciamo che parlare di intercettazioni, di processi brevi, insomma di come evitare che gli amici del capo, che le cricche e le cricchette amiche del capo vadano a processo. Tutto questo è insostenibile, non se ne può più. Io dico, le priorità del paese sono altre, ce l'ha ricordato il Presidente della Repubblica qualche giorno fa, abbiamo i giovani che sono ormai, cioè i dati sulla disoccupazione dei giovani sono incredibili in questo paese, le priorità delle famiglie sono altre, non riescono a pagare i mutui, non arrivano al fine mese. Io vorrei un governo e un Parlamento che si occupassero un po' più dei problemi del paese, un po' meno dei guai giudiziari del Presidente del Consiglio. L'obiezione immagino può essere, ma non so se l'onorevole De Girolamo su questo a dire, ci occuperemmo di questo volentieri ma ci troviamo ad affrontare altre situazioni. No, ma infatti posso dirle, Pina sta facendo sta parlando di tutto, ma facendo una grande confusione, cioè nel senso vanno uscite due cose. Non c'è dubbio, anch'io sono per il rispetto dello Stato, no ai faccendieri, no agli affari, no alle nomine, credo nella politica, credo che la politica sia passione e la faccio con quello spirito e mi rivedo in coloro che la esercitano in quel modo sapendo che è un servizio per la collettività. Sono d'accordo che questo paese ha bisogno di diverse riforme e che riguardano i giovani, il sud, la riforma fiscale, ma questo non significa che nel fare queste riforme non si possano fare quelle sulle intercettazioni, perché le intercettazioni non riguardano solamente Berlusconi e gli amici del capo, tra l'altro le persone di cui si è discusso all'interno dell'AP4, compreso Bisignani, erano amici anche di qualche capo del Partito Democratico e non ce ne dimentichiamo. Io trovo non giusto, ad esempio, e trovo assurdo, se si ha realmente rispetto delle istituzioni, che la Giunta per le autorizzazioni, che è istituzionalizzata e che fa parte del Parlamento e che prevede all'interno persone della maggioranza e dell'opposizione che decidono, ad esempio nel caso di specie, sul arresto meno, sull'autorizzazione all'arresto meno di Papa, debba leggere le notizie che riguardano il reato, utili o non utili, sul giornale, perché loro non hanno possesso delle carte, ma i giornalisti hanno già tutti i faldoni che riguardano il processo sul quale chi glieli passa indagando. Non dica il magistrato, qualcuno che non è giusto che glieli passi fino alla conclusione delle indagini, perché è giusto che una persona indagata ne abbia conoscenza quanto i giornalisti e che sia posta nelle condizioni di difendersi. Io mi auguro che non capiti mai alla Picerno di essere telefonata da un Bisignani di turno o anche da una persona qualsiasi, perché chi fa politica purtroppo è esposto, io non mi sottraggo a nessuno, parlo con chiunque, dalla persona più umile alla persona meno umile del mondo, perché ritengo appunto... Capito, però la linea di molti è dire se lei non ha niente di male da dire, cioè chi se ne frega. Sì, ho capito, tanto... ma secondo lei o secondo la Picerno è giusto che io se al telefono con un'amica dico mi è antipatica la Picerno, domani mattina deve se lo legge sui giornali, non ho più la libertà di dire piace Tizio. Ce l'ha, lasci questa domanda in sospeso, dopo il traffico vediamo di chiarirla. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, intanto, prima di parlare di ascoltatori, vorrei sapere dall'onorevole Picerno che ne pensa l'onorevole Paniz. Popolo della Libertà ha detto: c'è un testo, quello del Senato, bisogna inasprire anche le sanzioni. Per me ci vorrebbe carcere vero per i giornalisti, per esempio, che pubblica. Penso che sia una trovata folle. Questo, siamo nel campo della follia, non delle proposte politiche. Altra cosa, però, e mi interessava, poi ci torno su questo punto, dire che noi da sempre sosteniamo che non bisogna fare mercato della dignità. Ci tengo a precisarlo, soprattutto quando non sono coinvolti nelle indagini, tant'è che nelle nostre proposte, nella proposta per esempio Finocchiaro, che è stata depositata su Casson Finocchiaro, ma ne abbiamo, c'era per esempio la Camera, la proposta Tenaglia, noi da sempre sosteniamo l'idea di un'udienza filtro a distinguere in qualche modo le conversazioni che sono pertinenti da quelle che non c'entrano nulla, da quelle che devono essere distrutte. Sì, però guardi, onorevole Picerno, è un po' come la questione dei costi della politica, che se ne parla di tagliarli da decenni e poi siamo sempre lì, l'udienza filtro, non l'udienza filtro, le proposte eccetera, ma il dato di fatto è che finora si legge tutto di tutti. Insomma, questo senza dubbio è sbagliato, bisogna far leggere tutto di tutti quando le persone sono coinvolte, quando ci sono ipotesi di reato, perché è giusto che i cittadini siano informati di quello che succede nelle aule, diciamo, di Montecitorio, è giusto che i cittadini siano informati anche perché poi devono recarsi il voto. Cioè, se c'è un'ipotesi di reato, è giusto secondo lei che i cittadini leggano queste cose, le intercettazioni? Ma certo, io sono assolutamente d'accordo, c'è un antico adagio che recita: male non fare, paura non avere. Il punto non è ricevere la telefonata di Bisignani, che diciamo può telefonare a chi pare, compreso l'onorevole De Girolamo, il punto è che cosa si risponde, cosa si a risponde Bisignani. Allora sentiamo qualche ascoltatore. Antonella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono molto, cioè, mi ha fatto un po' di nervi sentire quella signora che parlava, non ho capito bene chi è, se è un ministro. Vediamo, ci sono due onorevoli, l'onorevole De Girolamo. Diceva che è assurdo che uno si indigni per quello che esce sui giornali, ma io come cittadina le assicuro che a me di sentire tutte queste cose non mi va. Allora, forse si riferiva all'onorevole Picerno del Partito Democratico. Io voglio che il mio pensiero rimanga libero. fino al giorno in cui so una notizia certa, perché sono stanca di sentire cose e di essere manipolata dai giornalisti che comunque mettono cose che a noi interessa la verità, insomma, appunto. Manipolata, cioè, si può discutere, posso essere d'accordo con lei sul fatto che alcune intercettazioni non hanno nulla di rilevanza penale, dunque, però manipolazioni, insomma, sono quelle che le parole che vengono dette sono pubblicate. Grazie Antonella, voglio andare a Reggio Calabria da Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma io voglio ricollegarmi poco al discorso che ho sentito del sì, Girolamo, sì. Perché oltre alla sua bellezza, purtroppo... che c'entra? Sì. Dica stupidate, ma che c'è? Lasci stare la bellezza, la non bellezza. No, la bellezza, perché purtroppo Berlusconi la tira sempre in campo. Allora lei si permette di calpestare la propria intelligenza, perché è una donna intelligente. Allora, se non ci fossero state le intercettazioni del fatto che Berlusconi si è permesso di prendere il telefono e telefonare per liberare una minorenne, tra virgolette, sì. Non si sarebbe saputo nulla. Quindi il discorso non si sarebbe saputo nulla all'opinione pubblica, no. L'inchiesta no, c'è. No, non ci sarebbe nemmeno arrivati, nessuno avrebbe denunciato. Beh. Quindi le istituzioni sarebbero state conniventi fra di loro, come purtroppo succede. Sì. Purtroppo. Mentre le istituzioni, visto che si parla sempre di trasparenza, di correttezza, di rettitudine. Quindi lei dice per questo è importante che no, ci siano. Sarebbe utile che ci siano maggiormente per i politici e di alto livello, maggiormente. Oh, i politici, dei politici bisogna sapere tutto di tutti. Onorevole De Girolamo, risponda a Domenico. No. Allora, Domenico, la magistratura l'avrebbe saputo e avrebbe continuato a svolgere le indagini e il processo sarebbe andato avanti. Probabilmente si evitava un processo mediatico che molto spesso comporta dei condizionamenti. Oggi noi ci troviamo di fronte a una difficoltà e dobbiamo affrontarla, altrimenti mettiamo la testa sotto la sabbia, giriamo dall'altra parte ed è sbagliato. Però guardi che l'onorevole Picerno dice proprio questo invece, che bisogna saperlo, cioè laddove c'è un'ipotesi come la questione, non so, del famoso processo Ruby, per l'onorevole Picerno l'opinione pubblica deve sapere, perché poi deve andare a votare, deve farsi un'opinione politica. Ma ci possiamo dare una regola? Lo possiamo sapere alla conclusione delle indagini preliminari e magari alla fine dell'udienza preliminare e non prima? Cioè io dico, possiamo mettere tutti nelle condizioni giuridiche di avere cognizione del fascicolo delle indagini? Cioè non è possibile che il fascicolo del pubblico ministero e gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero siano oggetto di gossip sui giornali o meno gossip, però io imputato, io indagato, io avvocato dell'imputato non ho cognizione del cioè fascicolo. Sapere l'inchiesta in tempo reale, su questo onorevole Picerno che ne pensa? Conoscere in tempo reale l'inchiesta, cioè man mano che procede per i giudici, più o meno insomma. Prima ho detto che si fosse un'udienza filtro, dopo delle conversazioni che sono pertinenti al fine del processo e quindi rilevanti, quelle irrilevanti vanno distrutte, quindi non devono essere rese pubbliche o pubblicate insomma sui giornali. Però questa cosa concreta, l'onorevole De Girolamo ha detto sulla questione per esempio Ruby, la vogliamo sapere quando finisce, quando c'è l'udienza preliminare, cioè non esce notizia di un'inchiesta e poi di pari passo escono le intercettazioni. Ma invece io invece credo che una volta appunto che si è fatta la distinzione di cui ho appena parlato, giusto che i cittadini siano informati per le ragioni che spiegavo prima, perché se è importante, se è giusto parlare appunto di moralità di ciascuno, io penso che l'etica e la moralità dei politici conti un po' di più evidentemente, perché i cittadini devono essere informati su quello che combinano e siccome gli esempi che abbiamo avuto negli ultimi anni non sono propriamente edificanti e confortanti, perché io vorrei ricordare che qua ci troviamo a discutere ogni 3 mesi di scandali aberranti, di cose che vanno al di là dell'immaginazione, è giusto pure che i cittadini siano informati di quello che succede. Mi lasci anche dire però un'ultima cosa, perché io vorrei ricordare che c'è un'indagine, lo dico anche all'onorevole De Girolamo, un'indagine conoscitiva del 2006 del Senato, approvata all'unanimità, che affermava appunto che la nostra disciplina è quella più garantista, lo diceva testualmente, dei paesi occidentali. E vorrei ricordare appunto che in Gran Bretagna, lei si ricorderà le conversazioni tra Carlo e Camilla, diciamo così, cioè non c'è barriera che tenga rispetto all'interesse pubblico. In Spagna non è perseguibile assolutamente la pubblicazione delle intercettazioni, perché anche lì prevale l'interesse pubblico, per non parlare degli Stati Uniti, il primo emendamento appunto della Costituzione sulla libertà di stampa, insomma. in tutti i paesi occidentali funziona. Dice, così. Viene garantita questa libertà. Intanto, intanto io qui mi devo fermare nel ringraziarvi l'onorevole Nunzia De Girolamo del Popolo della Libertà e l'onorevole Pina Picerno del Partito Democratico. Il tema rimane ovviamente molto dibattuto, ci torneremo sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino, potete continuare la discussione. E che dire, ci fermiamo qui con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Paolo Corleoni oggi in regia. La linea va a Oscar Giannino che parla della TAV, situazione ovviamente anche di ordine pubblico tutt'altro che tranquilla in Val di Susa. A te Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.